questo lunedì 21 settembre i titoli, il Sole 24 Ore apre su più tasse per un'impresa su due, nella manifattura record di aumenti, l'analisi del Sole 24 Ore sui dati infocamera che evidenzia una crescita del tax rate nel triennio 2012-2014. Invece Tsipras che vince politicamente in Grecia nonostante l'alta non affluenza alle urne, il 45% dei greci non ha votato. Vittoria di Tsipras, ma vota soltanto metà della Grecia, così titola il Corriere della Sera che mette insieme le due notizie greche. Repubblica, il riscatto di Tsipras, la Grecia è con lui, noi duri a morire, dice Tsipras. La Stampa, Tsipras rivince, farò un governo con i nazionalisti. L'Unità, Tsipras di lotta e di governo. Per il Messaggero, bis di Tsipras, rivince e governa. Mentre Tsipras uccide la sinistra è il titolo del Fatto Quotidiano. Il Giornale, il metodo Renzi, non pagare. Il Premier non salda i debiti, non onora gli impegni con lavoratori, polizia e pensionati. Questo è il titolo accusa di prima pagina del Giornale. Voglio partire però da una cifra, la cifra dell'evasione fiscale, visto che lunedì vi voglio rendere allegri. Sappiate che in Italia, secondo una stima ultima, racconta Enrico Marro, la stima è di oltre 91 miliardi sottratti all'erario. E questa, erano 100 miliardi, 120 secondo altre stime, bene dunque, no? Siamo solo a 91, sempre stime sono, L'evasione fiscale da sola, scrive il Corriere, senza contare quindi quella sui contributi sociali, sottrae ogni anno alle casse pubbliche più di 91 miliardi di euro. Ah, ecco, senza contare quella sui contributi sociali, quindi ecco che si arriva magari poi ai 120-130. Comunque, i valori più elevati di evasione si attestano nelle regioni settentrionali perché sono le più ricche, mentre la più alta propensione all'evasione si riscontra nel Mezzogiorno. Cioè nel nord rubano, evadono di più dal punto di vista numerico, quantitativo, ma al sud, volendo e potendo, avendo più soldi, ruberebbero di più, evidentemente, la propensione all'evasione. L'imposta più evasa è l'IVA, dove l'Italia è anche ai primi posti in Europa, battuta solo da Grecia, Slovacchia, Lituania e Romania. Tra le ditte individuali, i campioni dell'evasione sono i commercianti. Infine, nonostante si affermi che è difficilissimo evadere sugli immobili, esiste anche l'evasione sull'IMU. Sono questi i contenuti principali del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale, allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri. Rapporto previsto dalla legge di stabilità 2013, che allora racconta 91 miliardi sottratti. Pensate che di questi solo 40 miliardi sono sottratti appunto con l'IVA. Quindi circa il 50% di questa evasione fiscale viene dall'IVA, ma anche l'IMU, anche se è difficile, si riesce anche lì. A proposito di evasione, Gianluca Paolucci sulla Stampa racconta una storia abbastanza incredibile che viene da Prato. È la storia di un money transfer, sapete, sono quei bugigattoli a volte da dove partono i soldi e vengono fatte le rimesse degli stranieri nei propri paesi, vengono distribuiti, cioè i soldi vengono spediti in patria. Il mare di soldi finito in Cina che il fisco italiano non vedrà più. Recuperati solo 50 milioni di euro, ma sono svaniti almeno 4 miliardi e mezzo. E il processo partirà in salita. Eccolo qua, via Fabio Filzi, 39A, Prato. Ricordatevi questo indirizzo. Da qui parte una montagna di soldi sottratti al fisco e che il fisco non vedrà più. Un'inchiesta che chiama in causa una delle più grandi banche del mondo, un processo che chissà se si terrà mai. Siamo nel cuore della Chinatown pratese, un bugigattolo di 30 metri quadri con due vetrine in un pezzo d'Italia, dove anche il kebabaro ha l'insegna con gli ideogrammi. Da qui sono passati 1 miliardo e 77 mila euro in contanti nell'arco di 3 anni e mezzo, finché è arrivata la Guardia di Finanza che ha rotto il giocattolo e portato alla luce una rete di sportelli come quello pratese sparsi tra Toscana, Roma e Milano. Un giro totale di 4,5 miliardi di euro, 297 richieste di rinvio a giudizio e una quantità notevole di reati. Chiariti i numeri, si può raccontare cosa è successo. Siamo nel 2008, la Guardia di Finanza notano che un piccolo operatore di money transfer di Bologna movimenta tanti soldi nell'area fiorentina. Si incrociano i dati di Banca Italia, risultano transitati milioni di euro, ma di clienti in realtà in quel money transfer se ne vedono pochissimi. Il trucco è semplice. I flussi di denaro vengono spezzettati in tanti trasferimenti da 1.999,99 euro, cioè sotto la soglia dei 2.000 euro, che avrebbe fatto scattare le segnalazioni automatiche antiriciclaggio. Per farlo cosa fanno? Prendono un sistema, mettono in piedi un sistema con documenti falsi, intestati a cittadini cinesi inesistenti o ignari, in qualche caso anche morti. E l'indagine fa emergere così una valanga di nero, cioè vengono trasferite somme ingentissime ma spezzettate, attribuite 1.999,99 euro ognuna a persone anche morte. E via, 4 miliardi e mezzo sono andati così all'estero. Oh, a proposito di miliardi, ne cito questa cifra che c'è sul Messaggero. Sapete che c'è un dibattito sulla spending review. Quest'anno il governo dice taglieremo 10 miliardi di euro, l'ha detto più volte anche Renzi, c'è un commissario della spending review, c'è la revisione della spesa. Si tratta di un onorevole, l'onorevole Yoram Gutgeld, che deve tagliare 10 miliardi, questa è la cifra 10 miliardi. Attenzione, perché il Messaggero racconta con Sonia Ricci a pagina 9 che forse ci sono dei tagli più lenti. L'obiettivo quest'anno potrebbe essere raggiunto di 7-8 miliardi e non più 10. Il taglio della spesa pubblica potrebbe essere meno doloroso del previsto, pagina 9 del Messaggero. A Palazzo Chigi nulla è ancora deciso, ma stando a una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, l'intenzione sarebbe quella di prevedere una spending review meno corposa, soprattutto sul fronte degli sconti fiscali e degli incentivi alle imprese. E dunque la cifra potrebbe essere di 7-8 miliardi, non più 10. Ai. Staremo a vedere, Ma eccoci qui. Vi ho dato un po' di cifre oggi. Questa però è la cifra che vince il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. È l'articolo di pagina 15 del Corriere della Sera. Fiorenza Sarzanini prende un rapporto della Corte dei Conti che racconta, in base a relazione della Guardia di Finanza, quanto hanno frodato i funzionari pubblici in appena 6 mesi. In appena 6 mesi hanno sottratto allo Stato 3 miliardi di euro. Allo Stato, vi ricordo che, en passant, lo Stato siamo noi. In questo caso, cioè hanno fottuto dei soldi nostri, delle nostre tasse. 4.835 dipendenti pubblici hanno rubato o sperperato soldi della collettività. E quanti soldi? Appunto 3 miliardi di euro in 6 mesi. Funzionari, medici, politici, impiegati di primo livello, tutti citati in giudizio della Corte dei Conti. Anche il giornale dedica 2 pagine a questo. C'è il medico di Torino che lasciava il reparto in orario per fare soldi in una clinica privata. Ci sono i 2 dirigenti della società Ferrovie Sud-Est di Bari che hanno comprato 25 vagoni ferroviari, cioè i posti, non i vagoni, al doppio del loro valore. Il funzionario pubblico di Catanzaro che per anni ha intascato sia lo stipendio e sia la pensione per un danno erariale di 700.000 euro. La prof malatissima, che si mette in malattia per curarsi e invece organizzava concerti ed eventi in tutta Italia. Sono in totale 4.835 dipendenti pubblici che ci hanno fottuto 3 miliardi di euro in 6 mesi. In Grecia ha rivinto Tsipras. Certo, c'è da dire che c'è stato il 45% di persone che non sono andate a votare. 45%, poi li chiamano governi legittimati quelli europei. 45%, una persona su 2 non è andata a votare, per carità, chi non vota a torto e si sa, però una riflessione andrebbe fatta seriamente e non solo in Grecia. Comunque il dato di fatto è che ha vinto Tsipras, ha vinto il partito Siriza col 27%, però c'è da dire che non ha la maggioranza, non ha la maggioranza, nel senso che deve fare un governo che sarà un governo fotocopia con Nea Democrazia, e con scusate, ha vinto col 35,47%, 35,47%, ecco, avevo confuso le percentuali. Sarà un governo simile a quello di adesso. Certo, Siriza nel frattempo si è spaccata, i Varoufakis e altri hanno formato un altro partitino che non è andato oltre il 3%, 3,5%, ed è si è staccato da Siriza, ma comunque Tsipras ora governerà, non si sa con quale tenuta politica. Come racconta Federico Fubini in prima pagina del Corriere della Sera, ieri una vignetta su un giornale mostrava Tsipras in un lago di sudore, seduto nel letto, che diceva: "Che incubo" alla moglie, "ho sognato che vincevo un'altra volta". Ebbene, ieri sera quello scenario si è imposto su un'Atene stranamente stordita come un'indiscutibile realtà. Tsipras si è salvato ancora, tornerà premier. 9 mesi fa le piazze si erano riempite di bandiere per il primo trionfo della sinistra radicale alle politiche. Ieri invece la capitale greca era gravata da un'immobilità opprimente, solo un'altra serata di caldo e recessione, e per Siriza un altro risultato identico a 9 mesi fa, sulla base di un programma perfettamente opposto. Aveva promesso un ritorno alla crescita, ma si è presentato alle elezioni di ieri in una Grecia molto più prostrata di 9 mesi fa, con vincoli e controlli bancari che tormentano decine di migliaia di imprese. Tsipras era impegnato anche a sconfiggere gli oligarchi, ma ha portato la famiglia in vacanza nella villa di un grande armatore, facendo la spola con l'ufficio di Atene tutti i giorni in elicottero. E aveva giurato lotta alla corruzione, eppure il suo ministro, mentore e fedelissimo Alekos Flaburaris si è fatto coinvolgere in uno scandalo con la sua impresa di costruzioni. Risultato? Dopo questo colossale slalom tra parole e realtà, Tsipras ha rivinto, quasi con le stesse percentuali di prima. Grazie alle sue promesse, ai sorrisi, anche ammettendo errori, ventilando un presunto programma parallelo di sostegno ai greci accanto al programma europeo, è riuscito così a capitalizzare ancora una volta sul disgusto dei greci per tutta la classe politica. La seconda vita di Alexis è il titolo di quest'articolo di Federico Fubini, promesse, sorrisi e ora i sacrifici. È un governo, ripeto, fotocopia, sarà più o meno, con Alba Dorata invece i neonazisti, qualcuno li definisce comunque di estrema destra, che hanno ottenuto il 7%, risultato mai ottenuto fino ad ora. Dicono però, intervistato da Ettore Livini, a pagina 3, il numero 2, Ilias Kasidiaris, è il portavoce di Alba Dorata: "Potevamo fare anche meglio. Tsipras ha vinto perché i greci non hanno ancora capito quanto gli costerà il nuovo memorandum. Mi aspettavo anche di più del 7%, siamo gli unici davvero contrari alla dittatura finanziaria tedesca". Questo è il portavoce di Alba Dorata. A proposito di Europa però, come l'Europa ha atteso queste elezioni? Beh, certo, non con la stessa ansia e preoccupazione con cui si guardava la Grecia fino a qualche tempo fa. Lo racconta Andrea Bonanni su Repubblica, pagina 6. L'Europa ha seguito le ennesime elezioni greche senza particolari, no, fibrillazioni, l'hanno messo, fibrillazioni, vabbè. Lo stesso hanno fatto i mercati, lo stesso si direbbe hanno fatto gli elettori, con un'affluenza alle urne più bassa della storia del paese. Dopo i mesi convulsi e drammatici che hanno visto l'Europa sull'orlo del baratro, il risultato del voto non era scontato, era però ininfluente. Questo è il motivo per cui in Europa hanno guardato tutti con un certo, non dico distacco, non dice distacco neanche Repubblica, ma con una certa indifferenza qualunque fosse il risultato delle urne. Invece voi con quale atteggiamento? Con indifferenza, con passione, con entusiasmo, con grande trasporto seguite il dibattito sulla riforma del Senato in Italia? Oggi c'è la direzione del PD, Renzi andrà lì a cantargliene 4 secondo alcuni, altri dicono che invece Renzi non ce la farà a cantargliene 4. Oggi Repubblica la pone così: c'è lo scontro finale alla direzione del PD. Quant'è il 400° annuncio di scontro finale, mentre la pazienza della gente sta esaurendo, se non si è già esaurita? Però i giornali continuano a raccontare Bersani che dice: basta un millimetro e l'accordo c'è. Risponde in qualche modo il ministro Maria Elena Boschi, che ieri era a Torino e racconta il Corriere della Sera, la vede così la minoranza del PD. Oh, trovino una pizzeria, si mangino una pizza insieme, si facciano una telefonata, ma decidano cosa vogliono fare. Non se ne può più di questi avanti e indietro. Ecco, con questo scenario c'è il dibattito sulla riforma del Senato e soprattutto c'è questa sera la direzione del PD. Anche il Corriere la mette così, come la battaglia, come una sorta di Armageddon nel PD, è il giorno della conta. Senato. Titolo di pagina 12 del Corriere della Sera. Oggi il parlamentino del partito, cioè la direzione del Partito Democratico, convocato da Renzi, voterà sulla linea da seguire in aula sulla riforma. E la Boschi dice la sinistra vada in pizzeria e si metta d'accordo. Anche davanti a una birretta di Bersani può andar bene, aggiungo io. Comunque, Renzi, secondo retroscena di Repubblica, lancia l'ultimatum, anche questo è il 200° all'interno del partito. Ora ci contiamo, stop ai rilanci. Così Renzi. Il millimetro che manca all'accordo è il titolo del Secolo XIX, pagina 6. Manca un millimetro. Tra l'altro, Maria Elena Boschi mette in guardia i militanti del Partito Democratico a dire sempre a Torino: attenzione, perché se falliamo noi arrivano poi il Movimento 5 Stelle o la Lega. Se falliamo noi e se fallisce il PD, l'alternativa non sarà certo un'ulteriore svolta riformatrice o una svolta ancora più a sinistra, ma solo quella di consegnare il paese al Movimento 5 Stelle o alla Lega Nord. Così Maria Elena Boschi. Il Corriere dedica una pagina ad andare a intervistare i vari Da Torre, Gotor, Cuperlo, insomma la minoranza renziana, come si preparano a questa resa dei conti questa sera alla direzione del PD. Va bene, sono un po' sconfortato, ma solo perché arriva la capolista. Mauro Meazza, buongiorno, eccolo qua, la capolista, la capolista. Ciao Alessandro. Eccoci. Come stai? Tutto bene? Benissimo, tutto? Benissimo. Molto bene. Allora, guarda, voglio cominciare con delle annotazioni positive. Ti ho sentito un pochino depresso nei minuti precedenti. Ma era non mica per il Senato, la riforma del Senato. Era no, perché ti sento che sei un po' annoiato. Ma sai perché? Sei annoiato. No, sai perché? No. Al Fantacalcio avevo contro, la squadra contro, schierava Icardi e Higuain. Icardi ha fatto un gol, Higuain due. Secondo te ho vinto o ho perso? Secondo me è molto probabile che tu abbia perso. Abbastanza. Comunque ti volevo dire, facciamo una notizia da dita incrociate, cioè facendo gli scongiuri, perché oggi sul Sole 24 Ore segnaliamo che stanno un pochino ripartendo i crediti alle imprese, sì. Sai che c'è stato il credit crunch, ho già detto c'è stato, speriamo insomma di stare uscendo dal credit crunch, ecco. Ma ti spieghiamo tutto. Tu Sole 24 Ore di oggi, dove tra l'altro ti segnalo anche, ma non ti riguarda, tu sei giovanissimo, sì. Che nelle agenzie per il lavoro cominciano a comparire anche delle ricerche per lavoratori, diciamo così, senior, cioè quelli non giovani come te, ma un pochino meno giovani. Ti ringrazio. Insomma, spazio all'esperienza. È il fatto di essere capolista che ti dà questa simpatia. Ma ho questa ventata di ottimismo, a differenza tua, che mi sembri appunto un po' annoiato. Leggi dei giornali, leggi la Gazzetta dello Sport, magari trovi. Ieri c'è stata anche un'importante affermazione a Ferrari. Beh, la Prosesto ha vinto e siamo primissimi in classifica. Vedi che ci sono motivi. Abbiamo espugnato Fiorenzuola, quindi insomma. Bravo, oppure leggi L'Esperto Risponde che ti spiega come non perderti la detrazione nel caso di incapienza del coniuge quando fai i lavori in casa e usi bonus. Cioè, può accadere che ci sia appunto un coniuge che ha poco reddito, quindi si definisce tecnicamente incapiente e sull'Esperto Risponde ti spieghiamo una serie di casi in cui però si riesce a non perdersi comunque la detrazione, che è sempre una cosa positiva. Ricordati che devi leggere Norme e Tributi sempre. Sì, sì. Come lo devi leggere? Ti ho spiegato con un avverbio religiosamente. Mm-hmm. Religiosamente, perché ad esempio sul numero di oggi ti ricordiamo che si approssima la data di invio del modello unico vale la pena di fare qualche controllo in più. Mi rivolgo soprattutto ai professionisti, perché ci sono state delle indicazioni estive da parte dell'Agenzia delle Entrate che potrebbero avere modificato qualche scelta. Quindi, sì, in vista di questo invio, non ti sento avvinto da questo tema. Sono molto... Ti avvinceva di più quasi la direzione del PD, non capisco perché. Sì. È qualcosa che riguarda parecchi milioni di persone, quindi non stiamo ragionando. Così come peraltro riguarda tanta gente, non milioni, ma centinaia di migliaia di persone, la riforma dell'avvocatura, che l'entopede, ti piace l'entopede? Mi piace. L'entopede procede con, diciamo, un pochino in ritardo, bisognava finirla a febbraio, mancano ancora 11 decreti, te lo raccontiamo oggi, indovina un po' dove, sul Sole 24 Ore. Beh, dai. Molte altre cose vorrei dirti, ti dico che parliamo molto di lavoro post Jobs Act, con... il cambiamento che si approssima per la parte degli ammortizzatori sociali, della CIG, come si dice, della cassa integrazione, sì. E poi anche ti parliamo di certificazione dei contratti. Allora, per quel che riguarda la politica, c'è Salvini che fa un'intervista sul Corriere della Sera, a pagina 14 la trovate, intervistato da Marco Cremonesi, continua il grande silenzio con Silvio Berlusconi. Anche se dice Salvini, questo è il titolo dell'intervista, con Silvio l'accordo si può fare. Non abbiamo ancora l'incontro in agenda, ci sono anche vecchie cariatidi nel suo partito, ma con lui si ragiona, una lista unica è possibile se c'è l'intesa sul programma. E il programma d'intesa si troverebbe su queste cose, per esempio, dice Salvini. Il programma è abolire anche il tetto alla spesa in contanti a 999 euro, l'obbligo del bancomat, se siamo d'accordo su queste battaglie, oppure il no all'Agenzia delle Entrate che spedisce a 210.000 italiani lettere. Allora, se siamo d'accordo, bene. Tra l'altro, dice Salvini, quelle 210.000 italiani sono vittime, perché anche se i destinatari hanno ragione, li tirano scemi quelli di Forza Italia, quelli di, scusate, dell'Agenzia delle Entrate. È una roba da polizia fiscale, stile Corea del Nord. Così Salvini, intervista sul Corriere. Come detto, appunto, però, sulla manovra c'è molto dibattito su quanto si taglierà la spesa, c'è anche molto dibattito sulle pensioni. Perché? Perché il ministro Padoan ha fatto un'intervista a Repubblica ieri dicendo che la flessibilità in uscita, che invece Renzi ha evocato dicendo bisogna trovare le risorse per un po' di flessibilità in uscita delle pensioni nella prossima legge di stabilità, Padoan ha detto attenzione ai conti. Allora, ci sarebbe una soluzione che tiene insieme capre e cavoli, cioè è la soluzione del ministro, del sottosegretario all'economia Baretta insieme all'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, un testo che prevede di poter anticipare a 62 anni invece che agli attuali 66 anni e 3 mesi l'uscita in pensione, un'opzione che costerebbe il 2% ogni anno e dunque qualora fosse esercitata per 4 anni comporterebbe una penalizzazione dell'8%. Tra l'altro Baretta fa un'intervista al Giorno, intervistato da Claudia Marin, racconta come ci sarà, qual è il senso della sua proposta. Una soluzione per gli esodati arriverà in settimana, dice Baretta, e poi sulla flessibilità vedremo sulla base dell'impatto finanziario cosa si può fare. Il presidente del Consiglio Renzi ha fatto presente più volte che c'è un problema di misure a costo zero per le casse dello Stato. Lo stesso ministro Padoan ha ribadito la priorità dell'attenzione ai conti pubblici. Stiamo dunque verificando la possibilità di trovare soluzioni che rendano compatibili i correttivi della riforma con una blindatura dei saldi. Insomma, si cerca di fare questa flessibilità delle pensioni, ma a costo zero. È un miracolo, un'utopia? Lo vedremo, la legge di stabilità sarà il 15 ottobre, quindi da qui al 15 ottobre c'è un mese di passione per raccontare giorno per giorno come si farà. Oh, i giornali danno anche ampio spazio alla visita del Papa a Cuba. C'è anche questa foto che non è stata diffusa dal Vaticano per rispetto nei confronti della salute di Fidel Castro, ma è stata poi diffusa dal governo dell'Havana, della stretta di mano, l'incontro tra il Papa e Fidel Castro. Tutti raccontano anche la messa del Papa, che dice bisogna servire le persone e non le ideologie, il Papa che ora andrà anche negli Stati Uniti, e tutti raccontano il ruolo anche di questa diplomazia del Papa, l'incontro con Fidel Castro. Si è parlato di ecologia, questo fanno sapere dell'incontro, in realtà l'incontro di 30-40 minuti, non si è saputo bene quali siano i dettagli di questo faccia a faccia. Parleremo con Alessandro Robecchi e Claudio Velardi anche di questa vicenda del Colosseo chiuso, che ha suscitato tanto scalpore, un decreto d'urgenza del governo sul Colosseo chiuso per un'assemblea sindacale per 3 ore con turisti da tutto il mondo in fila. C'è anche un'intervista alla leader CISL Furlan, intervistata al Giorno, dice: è uno scandalo, è stato increscioso vedere migliaia di persone in attesa, ma alla base c'è un disagio profondo nel mondo del lavoro a causa della mancanza di programmazione e progettualità. La CISL comunque non farà lo sciopero, come invece ha già annunciato la CGIL. Questa Anna Maria Furlan, intervistata dal Giorno. Vabbè, che cosa c'è da dire? C'è ancora poco tempo? C'è spazio per un articolo? Vi segnalo la segnalazione, solo perché non riesco a leggerlo, di Benedetta Tobagi. Benedetta Tobagi, che scrive su Repubblica 2 pagine, va a fare un viaggio nella scuola di Brescia dove sono tutti stranieri. Mi sembra un racconto molto bello, molto anche edulcorato. Viva il multiculturalismo! Nella scuola che sfida la Lega, tutti i bambini del mondo, viene raccontato solo con gli aspetti positivi. A me sembra che una scuola, una classe con tutti stranieri, dove ognuno parla la sua lingua, una sorta di Babele delle elementari, l'insegnamento ne va abbastanza, o no? Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile, scovato sui giornali, una pagina contro la fretta, sul Fatto Quotidiano, pagina 17, l'elogio necessario della pazienza in fila alla cassa. Abbiate pazienza, cari italiani, anche se ci sono code, anche se ci sono file, anche se è lunedì, pazienza.